come non ce l'ha? Se lo fa dare da chi ce l'ha? Quando mai non ha avuto un contatto con il laboratorio? No, io dice, perché nuovo laboratorio siamo trasferiti da poco, non so che cosa, ho detto, vabbè, ogni volta l'assessore della prossima volta che il telefono vuole una risposta, appunto. E provi a fargli un'email a Desiree, eccetera, eccetera. Cioè, se tieni voi, cosa devo fare? Io devo fare, fatelo voi, voi ci avete la parica, se no me lo rimuovo qui dentro e via. Insomma, lontanamente, lontanamente l'avrebbe fatto. Vabbè, prossima volta per la direzione. A me me li ha sempre cambiati, mi ha sempre portato bene, non capisco perché si stanno perdendo, io ho paura che abbiano fatto qualche cosa loro, cioè probabilmente sta aspettando qualche pezzo che deve cambiare. Ma loro fanno caffè, vuole un top, per l'apparecchio ci vuole top, e bisogna mettere questo pezzo e arriva fra top. Quando c'è la lontananza è quella, perché quando tu lo porti qua, vai e vai in piatti casini nei negozi se non ti rubate, o vai a sapere almeno che cosa c'ha, quando devi pagare, tutto qua. E gli ho detto, guarda che glielo ho detto, che gli ho parlato con Desiree, ma l'ha detto che è oltre soltanto lì. No, ma noi non abbiamo parlato di tanto, perché quello lo sta già facendo, e se poi di più non mi dica. Ho detto, aspetta un attimino, io con Desiree ci ho parlato, glielo ho detto, guarda che non sia più di soltanto lì. E lei mi ha detto, ok, no, ma non c'è problema, non è più di soltanto, non esagerare, vai. Se no si è parlato con Desiree, io non lo so. La Daisy adesso è andata alla fiera. Che ha fatto? Vabbè, ma no, non è visto però, Non si guarda così la gente. Non è fatto, no. Io lì non le spedisco per far aggiustare niente. Io gli ho spedito quello là perché era rovinata, me l'ha mandato un uomo. E ha fatto il suo nome, punto, però a spedire apparecchiature da aggiustare non fa. Guarda, se tu metti già lì non fanno. Fatto come è. Già tu che porta gente e ti intenate a spedire queste cose perché sai il viaggio e cose si rovinano gli apparecchi. Ma una volta spedito non penso che ci voglia poco a controllarlo. Certo. Ma loro sono autista per fare queste cose qua, io vorrei capire quello. Loro hanno praticamente, adesso se è stata cambiata la situazione non lo so, però loro avevano un laboratorio enorme interno di dove c'era il negozio, si scendeva giù e c'era il laboratorio e avevano l'esclusiva della Kenwood, facevano apparati Kenwood radioamatoriali, facevano altri tipi di apparati tipo di Mussolini, di Aesu, tutte queste cose qua, allineavano, facevano, aggiustavano, eccetera, eccetera. Io non ti posso dire, se poi loro hanno cambiato il metodo di lavoro, che magari hanno licenziato chi si vera, ne hanno invitato da un laboratorio esterno, gestito da altre persone, questo non lo so. Ma non serve, non si serve di grossa. Come facevano prima le due non penso che siano arrivate a togliere le due. Ma lo sento io. Allora, io la zona industriale c'erano tante di quelle ditte grosse che io fornivo, prendevano anche quattro pedane d'acqua alla volta. Adesso qua si fa usarlato. Lo so. Molto strana comunque questa cosa. Io oggi gli ho stridato un po', dico la verità, perché un po' mi sta incantando anche io. Mi sta dando un po' di fastidio questa storia, capito? Avrei voluto quella persona tranquilla, avercelo davanti e tutto quanto, poterlo usare. Ma purtroppo mi sembra che ci sia un po' di benefreghismo, da quanto ho visto io, perché dall'altra volta gli ho detto, si informi, telefoni, ha detto, ce non so nulla, sì, ma la prossima volta si informi, telefoni, in laboratorio e chieda quanto è la spesa, che danno c'è l'apparecchio, dice, guarda, io ho capito che ha un danno serio. Però magari ho capito male io e sto dicendo cazzate, così bandito. E io gli ho detto, ascolta, ma qual è, potrebbe essere il fatto di questo ritardo? Non è il fatto che voi ci avete spedito, diciamo, quando ancora noi eravamo in ferie? E io ho detto, no, a me mi risulta di no, mi risulta che l'abbiamo spedito dopo che voi avete finito le ferie. Dice, da agosto, settembre, ottobre, c'era già due mesi che si è parlato, ho detto, oh, io devo telefonare, ho detto, spreco soldi per le telefonate, per farle la più pesante, a me non mi ha fatto nulla, ma per farle la più pesante a loro. E mi ha detto, sì sì, ha ragione, ma io sono solo un dipendente, mi deve capire, mi ha detto, ascolta, io allora capisco, ma le capisca a me che io telefono da fuori, non so niente, la parte ce l'avete voi, un apparato che costa la barca dei soldi, e si mette a arrivare i panni lì. Quindi la prossima volta che ho telefono, lunedì prossimo, mi deve far sapere che cosa l'ha parato e quanto l'ha spesa. Ma anche comprire che non ha risposto lei anche. Perché lei è alla fiera, tutti a Giudizio, è a Genova. Lei e Maurizio vanno alle fiere, capito? Portano le apparecchiature nuove, ritirano quelle usate e vendono le nuove. E qua quanto segna mi sembra non è strano. Sì, ma che può ritirare? Qualche 500? Si portava troppo male per questa. Se continuava così ci attraversano male, siamo già facendo cura, però forse ci ha risolto la nostra cosa. Ma lavoro anch'io, ma il mio dovere l'ho fatto, ho telefonato, mi ho detto come se fosse il mio apparecchio. Prima mi hanno detto che mi avrebbero fatto sapere, poi sanno mai niente, quando richiami c'è sempre questo cavolo di... deve essere anche un bel robusto, questo qui mi ha fatto tutto così. Vedo. Ecco, era gattata. No, ma comunque già va bene, già va bene. Il problema interessante è che lui faccia solo bene da buio. Vediamo bene. Quando rientra è la scusa. Lì non lo so. Non lo so, la fiera durerà tutto questo mese, penso. Un po' tutti così sono, anzi questi qui sono molto più rigorosi in cui cenno e facendo, non solo lo sanno, diciamo che già sono dei bravi venditori, ma anche dovrebbero essere dei bravi anche aggiustatori di apparecchi. Ma il fatto che abbiamo spostato questo laboratorio, ci siamo spostati, non ci abbiamo più quel laboratorio. Scusa, non puoi scendere giù a chiedere al figlio? Dice, ma non ce l'abbiamo più qua, il laboratorio da un'altra parte. Ma tu vedi che il console, quello che lavora lì, non ha il numero di telefono del laboratorio. Vediamo che se siamo risolto questo problema. No, già devo aprire la linea, telefono a Desiderio, il numero a Desiderio, c'è il sito, telefono a Desiderio, richiede il numero del laboratorio, telefono il laboratorio e chiedi. Guarda, me la sottere poi cosa. L'idea devo l'attaire, cioè, ma mi sembra che il lavoro sia un lavoro importante. Cioè, cosa si faccia il passato, a fare. Infatti gli ho detto, gli ho ribadito, l'aspetto la notte che funzionava, la mattina non ha più funzionato, la sera dopo non ha più funzionato. E cosa può esserci? Io non sono tecnico, non posso rispondere a questa domanda. Ma le finali non possono essere, perché la fare che si fa aspettare. E qui se senza un previsio non si chiama piazzato. Ma quello lì è qualche cosa che si cerca di dentro. Ma chi lo sa? Chi lo sa? Perché abbiamo provato noi, no? Quindi, no, non può assolutamente essere il finale, se non esce, no. Cioè, il finale che è bruciato non è. Ma chi che si fa i dubbi, aveva un fatto, si fa molto. Ho provato qua, ma questo è tutto. Stavo dove si è appoggiato questo. E la pari che si fa. C'è un mutatore della frequenza. Sicuramente. È qualcosa di memoria, qualche malato del genere. Io quella modifica che hanno fatto è stata fatta male. Siamo pensando a un filo di saldato, qualcosa del genere. No, no, no, mi ha detto che è importante come... Ma sono usati niente. Quello non è che deve essere un antipatico, è che deve ascoltare la parte che deve pagare il culo. Sono tutti voi qua a fare un nuovo giro da fare tanto la mia parte. Ciao Pierpaolo, buonasera. Sto uscendo di nuovo con quella radio così. Con la telefonica? Troppo compresso. Tanto oggi ha giovito una storia tra donne. Eravamo in macchina, io, mia moglie e Marconina stavamo andando a fare quelle commissioni. Siamo scesi da via Gorizia, lì al semaforo, tanto si fanno queste due donne, praticamente davanti e una ragazza dietro. E praticamente una di queste qua è scesa dalla macchina e è andata, l'ha presa a schiaffi a questa qui che ha detto, tu a me quello lì non me lo dici, capito? Non so che quella para quella sul giaffo. Quella adesso chiama il 113, il traffico bloccato, sapeva essere esaurito. questo dietro a me, là, ah, suonato perché c'è il traffico bloccato, e quella lì si è presa con me, quella delle, di Luggiano, poi ho detto, mi pare che ha fatto pure chi si è così, ti acciaffi, ho detto, poi ti ricordi io ti ribassi un capo, occhio, come ce l'hai, andavano a suonare, che non, se, non vedi cosa è successo, ti metti a suonare, guarda che io non sto suonando, imbecille, gli ho detto, guarda che ha suonato quello di dietro. In altre maniera talmente incazzata, mi ha preso a schiaffi con la storia. Sogna già, poi era dentro la macchina, gli ha allungato il braccio, ci pongo un cazzo ne già. No, secondo me, sai cosa è successo? Era una mancata precedenza, quella lì gli ha detto una parolaccia. Quella là si è fermata al semaforo, anche se era verde, si è fermata, quella di dietro si è fermata, se ne è scesa la macchina, ha detto, a me quelle cose non me le dici, capito, scusa, comincia. Quella che ha preso lo schiaffo, si è scesa dalla macchina, ha preso il cellulare, ha detto chiamo la polizia, poi c'è la tragedia affacciata dei palazzi. Sì, l'ho vista io dandole lo schiaffo, non dica che non gliel'ho dato, ma io dice schiaffo non gliel'ho dato di affare, gli ho visto che ne ha alcuni abitare. Ecco. E non su, lui si capiglia, prima ne aveva cultura, dopo ne si sente cose ne aveva cultura. Ma c'era un bel testimone, capito? Mi aveva preso il numero di targa, tutto quanto, però non si preoccupa che gli ho preso il numero di targa, questa qua da alterrato, cazzo. C'è anche Pierpaolo, già lo so. Avanti, ti dico, me ne stavo dimenticando, hai ragione. Pierino. Qua si sta regolando la radio, perché gli ho detto che stavo facendo un bel compresso. E dopo che si doveva ritrovare si buccia su una, perché aveva anche ragione, hanno bloccato le macchine a mezzo strada, non potevano passare. Quello lì ha suonato, no? E si è avvicinato con me, ho detto, ma non c'è gallai. Ha fatto bene che si è girato il recuto di giaffo, ma si è recuto di girare un gabbo. Ma non lo vedi che sono in mezzo al mare, non sto suonando io, ho capito che sta suonando quello di dietro, cosa vuoi da me? Gente che non può niente. Ma chi sa chi la da ciaffi abbia la faccia da Zarragona, di chi si. Di chi si monta le pline. Tipo per Dumascio, e dopo insieme a un'altra, capito? Si sa fare il titolo della macchina, tipo Mascimani. Stavo di rubare i pari denti su, a che deve essere la fila da parolacce, e mi sono cazzato. Ho avuto un brutto lavoro. Guardate che là c'era di chi si dedicava, era. Io mi nemmeno male. visto. Ah, si è pentato, poco che scendesse dalla macchina, andrò dentro la macchina, l'hai colpito di già. Roma che impara. Cosa? La Roma che impara. Sì, ma dovrà essere mezzo schizzata, era passatina. Mezzo schizzata dovrà essere, perché deve essere, se ne ha presa a parolaccia, di chi si nervosa, nel frutti, che era. Dopo il fatto solo che stava facendo spettacolo nella strada con questo telefono in mano, chiama la polizia! Adesso abbiamo la gioia tutti e due, ma tu a me quelle cose non me le dici, non hai capito. Mi hai preso a schiaffi nel casino. Ma però se no mi hai preso di più. Allucinante, poi non avevo mai visto donne così a Zuffano, si lo sa? No, quando ridere le donne quando si assistono. Una volta solo, un paio di anni fa, ne ho visto due tirandosi i capelli a sacro cuore. Per un ragazzo, se ne avevano tirati i capelli, una c'era i capelli lunghi, ha preso una sussa, non lo sa perché. Che l'aveva i capelli lunghi, l'altro ritirava i capelli e se... sai che è un attimato. Che carina che sono. Per papà. Quale cioè? È uscito qua. Ah. No, io volevo sentire la radio, se la va regolata. Grazie. Ma è proprio fondamentale che la potete. Vecchio friso se. No, prova. Oi. Non mi sono offeso. Qua fuori. forse si offuse perché ha detto che la radio non sta facendo bene, ma io dico la verità, non è che stia dicendo no, tu lo sei zitto. No, vabbè, non è particolare questo. Gli ho capito. No, qua. Che farò parlare? Gabra, gabra, gabra. Come è stato la notte? Come è stato l'anno 9? Va bene. Ti ripreso al 135? Sì, sì, no, già. Piano piano già qua. Vabbè. Ma se è consigliabile, magari quando esce raccompagni qualcuno giù. Lo so perché anche io lo so per esperienza, man mano che diventano più grandi perdono l'equilibrio, così era papà, non era mai gaggiuggio, l'ultimo più era sempre gaggiuggio. Che succede? Noi avevamo comprato il bastone, lui non le voleva, ma noi l'abbiamo comprato lo stesso, una volta che c'era, poi glielo usava. E lì un po' riusciva a tenersi bene. Però si appoggiava, per il bastone per farsi bidire o per sedersi in bagno. E cosa vedeva l'equilibrio? Una volta l'ho trovato tra il bidire e il bagno, caglio di intera, ho detto, oi, oi. Però si sommato si sottrava. A voi vuoi amici di capo di altri a cavallo? Sì, ma quello è dopo il periodo perché è stata una spesata. Poi ce l'avevano mandato a casa, senza farvi nulla, l'hanno mandato a casa. E dopo che è stato all'ospedale, che si è insegurito. Allora, l'hanno guardato, se è stato una cosa. Dove farlo fare, se l'hanno guardato. Si guarda anche il peso, si guarda. E poi quello che ho visto all'ospedale... Quando sono anziani proprio zero, non li considerano nulla. Sì, è vero. Sono un po' così, no. Considerano, forse si stanno facendo. Non li considerano perché di qua, c'è gente più giovane di loro che ha la priorità. Perché se muore un vecchio la sua vita se l'ha fatta, se muore un giovane... Non si è ancora fatto la sua vita, non ha ancora visto le cose come devono essere, studiato. E poi vuole conoscere uguale, che è giovane, e che è se tu lo devi curare a casa, poi se è come fa, come fa, ma no, tu puoi curare pure lì. Tanto io sono d'accordo con te, ma non la pensano loro così, un atteista. Non è così. Sì, è così. Loro hanno una scala rispetto a quel tipo di scala lì. Io lo so perché ho avuto a che fare con i dottori, quindi lo so come la pensano. Io addirittura una volta ho sentito un dottore che mi ha detto, ma perché non fanno come fanno in certi paesi? Gli faccio un'iniezione, tanto che ci stanno a fare i ricchi. Sono dei parassiti e basta, non fanno nulla, questo e quell'altro, così dico. Ma se tu lo fai mai a parte, perché tu nessuno ti sembra in questo, se lo fai mai a parte un teatro. Ma proprio se tu fai che cosa farò? No, io avevo visto di un vidulo che era lì dentro, c'è la porta su chiusa, a casa è tanto dritto, se non vengono pure i suoi buoni mani. Noi eravamo picchiati, non è che noi non abbiamo nessuno, avevo tutto punizioso da che con un metro di fumo, brutta banana. Ma se ce ne sono io, brutta animale, non mi piace. Eppure non c'è più rispetto per gli anziani, no? Te l'ho detto, cosa gli hai detto con la dottoressa mia moglie? Il cuore batte piano piano, piano piano, piano piano, piano piano. Fatto così, ancora dopo i gripi. Il loro figlio si tratterebbero come sono trattato con i poveri anziani, per l'essere umano. Qua lì ce n'è uno di dottore che io conosco, scusa, che si può mettere in cima alla fetta. Il dottor Cacca, che lo dico apertamente, è un bravissimo dottore, umano e soprattutto in gamba. Tu per fare quel mestiere bisognerebbe avere la vocazione, perché piaccia, e bisogna avere proprio la vocazione, bisogna avere una certa sensibilità con la gente. Ma lì c'è gente che non ha sensibilità zero. Sempre da buttare fuori, troppo le mani di mangiare. Però io guardo anche proprio la mafia. Ma non come. Che cosa ci porta da Arega da papà un giorno? Lo mettono in mare e l'altro lo buono nell'ambito, era un freddo. Lui dice, ma c'è un freddo, c'è un freddo. Alla fine sono dovuto... Ho trovato Lucia, quella che abita di fronte a casa, e te lo ci porta con una coperta a papà che c'ha freddo. Ha preso, aperto l'armadio, ne ha preso uno e gliel'ha messo adesso. Va bene, sai, sì, già sto bene. E poi portano questo anziano a dolori, alla pancia. Uia, riponono il lago, per mettere la flebo, lo mettono nell'ambito e lo lasciano gridando così. Alla fine mi ha fatto talmente male che io mi sono avvicinato e gli ho detto, che cosa c'ha, mi dica, cercando di rincuorarlo, non può, perché mi faceva male, io sentirlo gridare così mi faceva male l'uguria, mi gridi. E non mi ha detto, oh, non ve lo giunto, se non ha già mai fatto di sì così, io, no, non ve lo giunto, se lo metti in Dio male a vero, io a me ripirare non mi piace, e che piace, non pesa nessuno. Comunque aspetti, si calma, lei più si agita e peggiora, cerchi di stare calmo, adesso per la dottoressa di mettere il flebo e passa tutto. Ma quando me lo vuoi, dottore, la dottoressa passando non lo cagava nemmeno. Poi alla fine ho chiamato io l'infermiera, ho detto, ma quando mai lo potete? Sì, sì, adesso glielo mettiamo, poi se gli ha messo il freddo. Ma adesso la chimica di unite, se no... anche mo può portare 60 anni già, 72 anni. Purtroppo mamma ha l'infarto, ma era una cosa che non ci aspetterà, che non ci aspetterà. Ma questo tumore è stato già diagnosticato da prima o ve ne siete accorti solo nel momento che poi è stata ricoverata? Thank you. non so, ma vabbè, poi nella persona anziana il tumore cammina molto più piano, perché le cellule vanno più lentamente, quindi per esperienza lo so, mio padre, per dire, oltre a avere quello che ha avuto, gli avevano diagnosticato un tumore alla prostata, però questo tumore qua ha detto che poteva campare altri 50 anni, perché dice che va molto lentamente e per quello non c'è da preoccuparsi. Da preoccuparsi c'è invece perché va liquido nei polmoni e loro non gliel'hanno mai tirato, hanno fatto morire così. Tante volte gli anziani vengono considerati molto poco già, fidati. Io adesso non voglio dirti che tua madre mai si poteva salvare, però io lo so benissimo che ho fatto tanti anni di servizio ambulanza, io ho sentito dire dai dottori, ma è meglio che facciano come in certi paesi, di fare un'iniezione letale, tanto cosa ci stanno a fare questi anziani, sono dei parassiti, mangiano le spalle nostre e basta. Anche io questo, che io andavo a lavorare e facevo 20 km piangendo per un mese. Lo so già, io diciamo che il pianto, le lacrime, come pianto a piangere da quando mi hanno detto che non si può portare. Lacrime forse sono io più veloce, il mio, diciamo, organismo e non è più stesso. Hai capito, però a favore un esplorato e tutto qua. Nasce un bambino dopo 10 minuti di muore, ne vogliono un silente giovane, ne vogliono mamme che lasciano i figli in tenera età. Noi siamo grandi, siamo in due, siamo vicino già. Tutte quelle cose che si dicono in queste circostanze, che gli onesti a Fabio hanno agito bene, tanti. Era arrivata la lettera del 17 che era per l'anziano, era stato invitato proprio a suonare. Andremo a trovare la cosa all'anziano, perché la bisogna continuare già, però manca una cosa in casa che non c'è più e non è, diciamo, la 78 che si passa, che ce lo butti e smetti un altro, hai capito? Manca tutto, Gesù, che l'hai persa la mamma, la pensicone. Ci credo già, è purtroppo. È vero, la vita deve continuare, ma io penso che anche tuo padre faccia vedere di reagire, ma dentro di sé magari ci soffre, è normale, almeno per il primo periodo è così. E adesso ti raccolisci a tuo padre, sta a casa con te oppure ci sta tuo figlio, ci sta Ottavio? Mio padre è stato sempre con lui da piccolino, che sempre c'è il solito trattà, noi cominciamo e troppo a troppo perché poi il solito trattà sta facendo allegro, chiesa, tutto quello che tu vedi, ha capito, poi non so quando è ancora, però se ci chiama qui a chiedere lo credo che ne genera, che non vuole che mia moglie tocchi la scoppa, perché adesso lo deve fare lui, i piatti li deve fare lui, e ieri era qui a pranzo con la mia sorella, hai capito, già compagnia ne ha già, però come si chiama, ci manca la persona che siamo, poi non lasciamoli anche la sua libertà, perché se uno dipende troppo una cosa, e niente, io ho fatto fare la lapide già, e i miei massimo lì, e l'hanno fatta perché mi conoscono, ma cazzo la foto che mi ha seguito a fine settimana, e sta bellissimo, ho fatto, però già, hai capito, e come si chiama la persona manca, se queste cose non servono a niente, hai capito, sono cose, manca la persona, manca, la mamma che a me mi ha dato la vita, forse che si capisca perché si è passato prima di me. Potrebbe una ragione e gli ho detto ma posso farmi una ragione, non mi è mancato uno spirito, mi è mancata la mia mamma, che io gli ho fatto il paragone di una vicina di casa che c'è sempre il figlio, ho detto che lo tiene per mano, che parla fino, che vediamo il giorno, perché siamo amici vicini. E come ti senti? Come chiedo se tu voglia a Luca e sentirai che non ti senti la stessa cosa che c'è Luca. Glielo credo. Già purtroppo cosa vuoi fare? Tanto indietro non si può più tornare, bisogna cercare di reagire e di continuare la vita, c'è poco da fare. Purtroppo la vita ci riserva di queste cose, anche di queste cose qua. Oltre delle cose belle ci riserva anche quelle brutte. La bellezza di queste cose qua è che quando muore una persona ne nasce sempre, me ne nascono altre due, quindi la vita continua per tutti. È una cosa un po' brutta, io ti sto dicendo, mi stavo facendo un esaurimento, ma io mi faccio la mia moglie di singhiozzando a letto. Ma a me lo dicevo già, io mi sono sparazzato, io mi... Anzi, c'era uno di Portocchino, che è una sorella di Portocchino, era poi stata ricoverata con mamma che aveva tutti i problemi, che mi dicevi tu di questa tua sorella, e non ho pensato che era lei, io anche lì all'ospedale, come mi ha avvicinato a chiedere, quando non è che quella è la sorella di Gianni, perché già aveva l'intesa ancora che tu mi parlavi di questa tua sorella, già. Mia sorella stata in coma tuttora, non si è mai ripresa. No, un generatore è stato magari molto poi, cioè, la stessa posizione per le cose, fatto che una della famiglia non mi sono permesso di avvicinarmi, però ci stavo pensando, però non più un figlio di magari non è andato alla lettera, hai capito? Tutte queste cose ci hanno spiegato, hai capito che in quel reparto vedevo la gente che ne trovano morta dalla gente, io non le vado a mamma, hai capito? Perché io c'ero, mi ero sembrato tutto il tempo, prima di scendere la camera mortuaria da 2 ore. Questa stanzetta, ma poi hanno entrato lo zoppo perché stavo facendo tipo i piedi e ero con mia sorella e con mio cugino a tutti i marinari. Però di un piccolo anche chiaro niente, che ci aveva la metà da parte, mi devono rimanere un po'. Non diciamo che se ne fa una ragione, però è capito tanto quanto è già 100 anni che è un genitore. Si è sposata. Ah, no, non fa vero. perché lui gli ha fatto abbastanza di ragazzi, di cose, e mi ha sempre detto che ho il cuore di pietra. Io da quando mi sono mollato con la tipa non mi innamoro più, e diciamo, ma va, se tu mi la tipa tua vedrai, e così è stata. Giovane, capito, poi arriva il tempo che si ha bisogno anche solitudine ti fa morire prima. Siamo a Natalino, siamo lo spirito, io Natalino è una persona che poteva dalla vita forte nel campo e ho sempre detto in casa, poi adesso lo guardiamo nel momento, però Natalino è una persona che perché è volenteroso, c'è ancora della grinta, questo è il che noi abbiamo se fosse giusto, sempre con la sua educazione, che da una forza mia per Natalino sempre pensa come per te, e queste le persone che non cade in gamba di moto. Ti volevo chiedere, già non sta lavorando? No, non capivo, che momento? Io che va qualche cosa, nel senso io, avrei cercato con questa roba dell'arte, visto che mi dice, magari intelligente, magari ci riesce anche, hai capito, cercare in un mondo forte. E così, poi peraltro, nulla già contato in casa, la signora, i contatti. Grazie a Dio, bene, già, tutti bene. Non c'è nessun tipo di problema, grazie a Dio, per il momento siamo tutti bene. E niente, i ragazzi sono andati a scuola, come tu sai. E niente, tutto a posto, adesso mi riscrivo in qualche posto per fare un po' di sport. Marco forse vuole riprendere la piscina. Emanuela, non lo so, Emanuela non sai che è appassionata di canto, forse si deve andare a cantare in un coro di quelli famosi, no? Dove vengono anche pagati. Infatti non c'è una bella voce, ma tu le sta con te anche noi, non abbiamo più altro conflitto, abbiamo fatto anche nelle serate, ho fatto esatto il continente, che non è arrivato la mia volta, no, poi è iniziato a fare tutte le mamme. Lavorato ma troppo, però poi col pensiero già abbiamo visto le serate, sai come, però Manuela c'è una bella voce, l'ho vista io quando sono a Molise, ho molto apprezzato e volevo costruire qualcosa, e anche Ottavio è stato entusiasta e ci abbiamo fatto che era in tutto, e avevamo capito, tu hai fatto un impatto, non mi sta messo già per in casa, tante cose, non so se noi l'abbiamo anche fatto in casa, comunque, ripeto già, tranquillamente è una ragazza che merita, che c'è la passione, io penso, ed è uno di arrivare dove vuole arrivare, e capito, poi noi riprenderemo il solito tanto, come ti ho detto, mi piace se c'è la giornata dell'anziano, che ne parteciperemo anche perché mamma, hanno proprio partecipato, no? O insomma potevi partecipare, pensare con gli anziani, pensare diciamo di prendere la vita romana. E poi già, capito, adesso saranno tante piccole, mi prenderò qui alla radio, con voi, mi tutto piano per suo quadrato. No, non l'ho più sentito, cioè sinceramente, da quando è andato al mare, che lo sentivo da Plattavola, poi non l'ho più sentito. Ma ogni tanto ci ha fatto cucù, quando si accorgete che le garba entra, dai, non c'è problema. Se ci siete noi siamo sempre sul 21, oggi mi siamo spostati qua perché volevi spartere, mi davano fastidio e mi sono spostato. Così non ci sono problemi né per l'uno né per l'altro. E niente, poi per il resto, grazie a Dio, va tutto bene, il lavoro va bene, sempre a gonfie vele. Io so già, lavoratori, non niente anche nel baracchino già, non serve a dirarti, meglio per i pazzi, per il baracchino è un passateco già, hai capito, perché se la prendiamo io l'altra volta mi sono attirato per prendere con un po' buio, perché l'ho attirato, mi ha portato un limite di farmi girare le cose, però poi la radio mi fa da subito, però non serve a niente, già meglio vivere in pace, ci facciamo la chiacchierata. di gola in questo periodo, ma ne sei più. Adesso mi sa che è passato tutto, ma ha avuto una brutta laringite. Ok, anche io la base la roba, questa che mi fa via, e già non sei qua ancora, se non facevano male. E se posso dire che ero prestato senza passare mal di denti come l'ho passato la volta. Yeah, right. parla. Ti saluto, mi ha fatto piacere sentirti. Quando vuoi siamo sul canale 21, non c'è problema, siamo ogni sera io e Antonio Momolo, per Paolo, qualcuno entra sempre. Ok? Esatto.